ma ne sarai tu e chi non te lo dice, hai capito me lo bene? O cosa vuoi, senta Giulio con la moletta e ti fai il pizzetto, eh? Allora, Luca, prova a parlare un attimo, ti sento troppo... Un po', 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, prova, vai. Yeah. io avevo proprio un corno, so come lo avevo appetito, o io avevo mangiato anche la fascia, ma quanto di male, voi siamo là, io non l'avevo mangiato. Ci mangiano il cavaliere di Rossi. Ho fatto il riparatore TV e il riparatore di cucine. Ma ci ha contato la cucina e il visore manno di Azzala. Sì. Io mi ho aggiustato il televisore della sala, quello grande, quello a 32 pollici, no? E la cucina. E domenica è salita mia cognata da Porto Torres. E c'era anche l'altra mia cognata, abbiamo mangiato tutti qua. Però si stavano lamentando che la fiamma era troppo bassa. Chiesa se volendo più d'aglio. Infatti la centralina era di cui al massimo, però non aumentava la fiamma più di quello. La cucina già, però ci vuole più tempo a cantumare di testa. Allora mi sono gubbuto, mi ha già dimontato che mangiavo, ha già dimontato Ruggeri, ha già buriti, cazzo, una bomba. Allora finta la mia tronia poi gira la barita, cazzo, diventa ruglia. Se non la baci, la ruglia la bacia dal rubinetto, perché la centralina già era al massimo, perché io ce l'ho fuori le bombole, no? E c'ho la centralina e ce l'ho la fuori. Quindi adesso li devi abbassare i fornelli, se lo vuoi come lo voglio, come lo uso io il fuoco, capito? Esatto, io il mio è 21. Fatto proprio il spazio non ho ricordato, ma accendo un po' perché sono la moto, non accendo. Al limite se passano al 10, insomma che entra il Claudio. Ma che sul 10 ha detto che entrava? Entra lì lui sempre. No, eravamo su 5 l'altro giorno, gatta, se mi vado roba di QSO. Proviamo a andare sul 10, da. Non ho sentito né a parchetto, né a nessuno, tutti voi ci sono, Va. Ci sentiamo qua 15 minuti, così vediamo un po' cosa si mangia oggi. E io vado sul 10, allora, va. Capra. Come dire?